Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di educazione, di istruzione, di scuola e lo facciamo con uno dei grandi esperti della scuola italiana, il professor Tullio De Mauro. Buonasera, professor De Mauro. Buonasera, molte grazie del grande esperto. Beh, è stato ministro della pubblica istruzione. Mi occupa da tanti anni di scuola, da quando ero molto giovane. Quando era molto giovane. Ma si resta giovani soprattutto nello spirito, è uno dei grandi esperti anche di scienza del linguaggio, di glottologia, di filosofia. Però non ha scritto un libro, lo chiamiamo perché ha scritto una prefazione e anche le prefazioni sono importanti. Ha scritto la prefazione al libro di Martha Nussbaum, Per profitto, perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, edito dal Mulino. Non per profitto, è una tesi appunto secondo cui l'istruzione non dovrebbe essere strettamente collegata alle esigenze dell'economia, cioè non dovrebbe puntare immediatamente a formare delle persone che entrano nella catena produttiva. Ho riassunto bene i termini del libro, professor De Mauro? Sì, naturalmente, come ho ricordato nella prefazione, come gli economisti sanno meglio dei professori. Lo sviluppo dell'istruzione in generale è un fattore decisivo per lo sviluppo economico, almeno per lo sviluppo misurato in termini di crescita del prodotto interno lordo dei paesi. Adesso abbiamo, voi lo sapete, probabilmente ne avrete parlato, questa enorme ricerca sui paesi del mondo, su 160 paesi del mondo di cui è stato misurato il PIL, la crescita di PIL in rapporto alla crescita dei livelli di istruzione a cadenze quinquennali dal 1960 al 2010. E quindi i dati sono ormai tali da togliere ogni dubbio, c'è una correlazione fortissima tra crescita dell'istruzione e successiva crescita del PIL di tutti i paesi. Questo va ricordato e la Nussbaum lo sa bene, che c'è una correlazione molto forte tra prodotto interno lordo e crescita dei livelli di istruzione. Lo sa in sintesi, ma noi abbiamo oramai dei dati molto analitici, molto solidi di due bravissimi studiosi di Harvard che hanno studiato l'andamento del PIL in rapporto all'andamento dei livelli di istruzione in 160 paesi del mondo dal 1950 ai nostri giorni, fino al 2010, per 60 anni quindi. Le loro analisi tolgono, se qualcuno volesse avere dubbi, ogni dubbio. L'istruzione è cresciuta enormemente in tutto il mondo, in tutti i paesi, naturalmente di più nei paesi sviluppati, e questo è strettamente, ha una correlazione molto stretta con la crescita del prodotto interno lordo dei singoli paesi. Ecco, ma a questo punto ci si può chiedere come si misura la crescita dell'istruzione. Ovviamente si può misurare con il numero di persone coinvolte. Intanto con le quote di scolarizzazione, diciamo, questo è, però ecco, e qui interviene giustamente il ragionamento della Nussbaum, che io personalmente condivido. Far crescere il PIL non è l'unico obiettivo per cui vale la pena studiare il Cartesio, l'Illuminismo, la Rivoluzione francese, quella russa o la storia contemporanea o gli assiro-babilonesi, perché anche loro sono piuttosto importanti. Certo. E via dicendo, insomma, affrontare i contenuti dell'istruzione anche più tradizionale, affrontare l'apprendimento di lingue straniere, di matematica, di scienze, eccetera. Ci sono obiettivi altri, indipendenti dal PIL, la capacità di orientarsi nel mondo, di capirlo, e capirlo significa capire la storia di popoli molto diversi, capire la storia. Orientarsi nel mondo significa conoscere più di una misera lingua straniera, oltre alla lingua materna, significa avere la e educarsi progressivamente a convivere nel proprio gruppo, nella, a cominciare dalla propria classe, dalla propria scuola, dalla propria città, dalla propria comunità nazionale. E questi sono obiettivi primari dell'educazione, di quello che i pedagogisti chiamano, io non sono pedagogista ma ne ho molta stima, chiamano il curriculum implicito, certo. Quel curriculum che non è fatto di formali, di nozioni da imparare, ma di modi con cui le cose si imparano, con cui i modi con cui si sta insieme. E questo ha un ruolo fondamentale, il rispetto degli orari, il rispetto dei compagni, il rispetto di chi sta parlando. Bene, questi sono fatti altrettanto importanti quanto gli assiro-babilonesi o la rivoluzione francese. Ecco, in questa prospettiva non c'è una contrapposizione tra la cultura umanistica e la cultura tecnologica. Se si comincia a ragionare in questi termini, ci si accorge che le presunte barriere tra cultura umanistica e cultura scientifica cadono, nel senso che il processo formativo e il processo di ampliare gli orizzonti dei ragazzi è un processo complicato, ampio, e molte cose diverse non solo possono andare bene, ma devono andare bene. La matematica non è meno importante del latino, insomma, e in particolare la Nussbaum difende l'importanza del garantire, gli americani hanno fatto una prospettiva storica, l'apertura di una prospettiva storica a tutti gli insegnamenti, anche agli insegnamenti di scienze. Ecco, è interessante che proprio da una ricercatrice americana, che ricordo che Martha Nussbaum insegna all'Università di Chicago, venga questo richiamo alla classicità. Sì, certo. Nella prefazione mi sono permesso di aggiungere, diciamo, perché è difficile fare le prefazioni, uno rischia sempre di avere l'aria di voler essere più bravo, però una cosa mi premeva aggiungere alle ottime ragioni della Nussbaum, che nelle aree più dinamiche del mondo di oggi, cosa che dovrebbe essere interessante a chi pensa alla questione in termini economici, nelle aree più dinamiche il posto della rispettiva classicità è un posto di primo piano, in Giappone, in Cina, nell'India contemporanea, in Israele. Bene, lo studio dei loro testi antichi, dei loro latini e greci, è uno studio che accompagna la formazione degli studenti in tutta la scuola media fino a tutta la scuola media superiore, e in India nelle università, nell'India che produce grandi economisti e grandi informatici e matematici, il sanscrito è rientrato a bandiere spiegate nell'università. Quindi, in certo senso, tornando all'Italia, rischiamo un po' di perdere il treno se in questa corsa verso una modernità solo tecnologica. Siamo in controtendenza rispetto alla tendenza profonda. C'è una sola giustificazione a dubitare degli studi classici nella nostra scuola, è che purtroppo per un complesso di ragioni greco e latino sono due materie che non hanno avuto sono state insegnate un po' male, diciamola tutta. Ci sono lamentele che risalgono, attenzione, perché qualcuno ogni tanto tira in ballo il 68, non c'entra niente. Abbiamo documentate lamentele sul pessimo stato dell'insegnamento di greco e di latino che risalgono ai primi del Novecento, quindi molto prima del 68, purtroppo, dico. Certo. Ecco, c'è nel libro una citazione di Tagore: possiamo acquisire potere con il sapere, ma la vera ricchezza l'otteniamo con la sensibilità ai problemi altrui. In fondo la scuola dovrebbe mirare a questo, dare alla persona... Mirare soprattutto a questo, sì. Una ricaduta, come c'è positiva anche sulla capacità di produrre reddito di una popolazione, benissimo, ma non è questo l'obiettivo numero uno. E anche questo giustifica appunto anche il sottotitolo del libro, perché le democrazie hanno bisogno della cultura, certo, umanistica. Certo, lo sappiamo bene, noi abbiamo una bellissima Costituzione in Italia, di poco possiamo montarci, ma di questo sì. C'è un articolo 3, comma secondo, che ci raccomanda di partecipare tutti alla gestione della vita sociale e comune, e per fare questo bisogna essere bisogna avere un buon livello di istruzione. Di istruzione, di coscienza e di sensibilità. Grazie. E naturalmente. Al professor Tullio De Mauro, che ha scritto la prefazione del libro di Marta Nussbaum, Non per profitto, perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica. È un libro edito dal Mulino, sono 14 euro per 168 pagine. Grazie professor De Mauro, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buonasera.